fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Per raccontarsi, per raccontare, benvenuti, benvenuti di nuovo sulle frequenze web di Aristo Radio Convento. Benvenuti da Master Nick, stiamo vivendo un altro sabato di Narendense, ovviamente, Convento di Lunato, sabato 22 dicembre del 2018, per essere precisi, 1:35 del mattino. Un saluto a chi ci sta ascoltando in diretta e ai tanti, speriamo, che ci riascolteranno con il nostro podcast, con le nostre repliche, perché ovviamente andando in programmazione 24 ore al giorno potrebbe essere qualsiasi giorno della settimana in questo momento e qualsiasi orario durante il giorno. E mentre ci state seguendo, ci state ascoltando, potete anche sentire la voce del nostro primo ospite, un ospite indiretto, diciamo così, perché solitamente nei nostri studi abbiamo i festeggiati, abbiamo tutti coloro che sono protagonisti di questa serata, ma ogni tanto è bello avere anche chi li accompagna, i loro partner, diciamo così, non si sa se nella vita, sicuramente nella festa. E allora diamo il benvenuto ad Alberto. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Sì, la nostra festeggiata non è nelle buone condizioni di partecipare a questa intervista, quindi... No, cioè, diciamo, non facciamo preoccupare nessuno, assolutamente. No, cioè, sta bene, è un attimo assentata. Sta ballando, è sì, mezzo, sì, è sta persa, ballando, è sta ballando. Si è un attimo assentata, quindi ecco, questa attrazione fatale è verso la pista da ballo, e quindi ha preferito stare io. Lì, esatto, la sostituisce. La sostituisco io, compagno per interposta persona. Università. Compagno di università. Compagno di università. Ormai abbiamo finito l'università. Ah, ex, avete ex finito. Compagno di avete, ah no, beh, avete finito, cavolo, certo che sì, perché siamo qui a festeggiare proprio quello, quindi sì. Assolutamente siamo qui per renderle omaggio come giusto che sia. Allora, Alberto, da dove vieni intanto? Io vengo da Leno. Ok, da Leno, provincia di Brescia, per chi non lo conoscesse o non fosse della zona. Però si sente dalla cadenza la provincia di Brescia. Sì, sì. Dici un pochino, un pochino. Sì. E quello che è importante poi ricordare, come già accennavi tu poco fa, è la protagonista della vostra festa, della vostra serata, neolaureata, giusto? Neolaureata in economia. Economia, lei si chiama? Si chiama Francesca. E viene da? E viene da Lunato. No, viene da Lunato, quindi... Si è laureata all'Università di Brescia. Ah, l'Università di Brescia, quindi compagni di università, ma anche quasi compaesani, non dico compaesani, ma insomma... Quasi comunque compaesani. Bresciani. E immagino di sì, ti ricordi anche la votazione? Votazione 104. Oh, 104, bello. E tu come sei messo invece? Io ho già laureato da marzo, quindi... Ah, 6-7 mesi. Sì, 6-7 mesi. Ok, con la speranza di diventare o di essere? Ma attualmente lavoro nella ricerca, sempre in università, quindi per adesso... Ah, sei rimasto in ambito accademico? Sì, in ambito accademico, quindi con la speranza anche di continuare o di... Non lo so, trovare, vedere un po' come va il futuro. Intanto, vabbè, affrontare quello che è un po' la vita ti... Esatto, affrontare quello che la vita ti presenta. Mentre Francesca, sai per caso se ha qualche inclinazione particolare, qualche idea, qualche aspirazione? Ma Francesca già lavora anche lei, ha fatto praticamente l'ultimo anno studiando e lavorando, quindi lei già lavora in azienda, fa negli acquisti. Ah. Di lei già piazzata. Sì. E come vi siete conosciuti in università? In università ci siamo conosciuti il secondo anno di università. Ah, tardi, quindi tardino. Però abbiamo fatto 4 anni di università insieme. Mm-hmm. E sì, siamo diventati buoni amici. Classe grossa o classe ridotta? Ci siamo conosciuti in classe grossa e poi negli anni successivi man mano hanno mollato, siamo arrivati in classe ridotta, però più o meno numeri rimasti... il secondo tanto anno per capire. Secondo me è un 200 però, 300 200-300 sì, poi magistrale in 25 25 30. Cavolo, sì. È un percorso più o meno obbligato, o nel momento in cui finisci la triennale hai comunque una scelta di specialistica? No, hai una scelta di specialistica. Okay. Però poi già i primi anni tanti mollano perché non ce la fanno, poi quando c'è la scelta si ramifica, quindi... Sì, diciamo che esatto, sì, ci si divide ancora, ancora di più spesso. E dai, visto che sei qui, come abbiamo detto prima, per interposta persona, descrivicela un po' con i tuoi occhi, con la tua voce, per quello che la conosci, cosa dobbiamo sapere di Francesca, o meglio, cosa devono sapere i nostri ascoltatori di questa fantastica festeggiata? La nostra Francesca è una ragazza iperattiva, solare, lanciata e sì, molto molto carica e anche molto precisa, sai, nei un economista ci sta quando facevamo essere... lavori di gruppo, se è un po' minuziosa, no, se non, se non si rispettano le scadenze, c'era la però sicuramente come è giusto che sia, può, può avere un buon futuro, però poi sicuramente è un carattere molto solare, molto simpatica. Quindi sono queste le sue caratteristiche principali. Sì. Beh, non ti chiedo se hai fatto il pendolare o sei rimasto là, perché la risposta immagino sia più o meno ovvia. Il pendolare? Sì, nel senso, hai fatto su e giù, non hai, non sei rimasto, non hai abitato là. Ti sarebbe piaciuto magari un'esperienza in condivisione o... Sì, mi sarebbe piaciuto, mi sarebbe piaciuto, e ho anche cercato, per un periodo volevo trasferirmi, però alla fine ho... Non è andata. Non è andata. Non è andata, non è andata, non è andata. E tra l'altro dovete sapere che chi non ha vissuto direttamente la serata qui ovviamente non, è, non ne può essere a conoscenza, che sono stati anche protagonisti di parecchie scene come, come tavolata, con uno, una pistola che sparava banconote o comunque mi immagino banconote finte, spero. Banconote finte. Ok, banconote finte. E no, spiegaci un po', perché ci ha colpito tutti, da dove è nata e... l'idea, perché è nata e cos'era in realtà. Non si è capito che cos'era. Ah, perfetto. Il suo. No, no, dico, era una domanda da fare. Ah, no, no, no. Sì, certo, però è per spiegare anche a chi, sì, chi non è qui cosa, cosa vi siete inventati. No, si è vestita da, dalla Ferragni, quindi dalla moglie di Fedez. Sì, sì. Con parrucca, vestito bello, bello in gingheri e poi spara soldi, perché ovviamente bisogna un po'... manifestare la propria ricchezza. Ah, proprio... estremizzato un po', quindi... un po' estremizzato. Ah, ok, è stato uno scimmiottare quello che è la, la vita di Chiara Ferragni, un po' quel mondo lì. Sì, esatto. No, a me affascinava la pistola, ma cos'è, tipo super liquidato, cos'era? Penso sia una pistola d'aria semplice, che è fatta apposta con la scatolina proprio per i soldi, con dentro il pacchettino. Ah, quindi con, cioè non è stata adattata, è stata comprata volutamente per questo. Volutamente, sì. Ah, sì, per sì, questo, bello. E i soldi li avete stampati voi, li avete già trovati stampati? Sì, comprati, erano comprati. Già... nel pacchetto completo. Nel pacchetto completo. Ok, ok. Domanda che non c'entra assolutamente nulla. Sei appassionato di giochi in scatola, qualcosa del genere? Boh, magari serie TV, che ne so. Giochi in scatola, sì, qualcosa. Qualcosa. Vabbè, sono i classici Risico. No, io quello che volevo sapere è quanto se andavi forte a Monopoli, perché magari conto delle strategie particolari. Ma sì, dai, Monopoli è da un po' che non ci gioco, però ci andavo abbastanza forte. Sì, andavi forte. Basta comprare Parigi, segreto, quella parte lì. Parigi, aspetta, qual è? Parigi dovrebbe essere quello blu, no? No, aspetta, Parigi. Ah, beh, no, dipende che Monopoli giochi, perché Parigi, quello classico, non c'è. No, Monopoli Euro c'è. Ah, Monopoli Euro, Monopoli Euro. C'è Parigi. Ma qual è quello con le due caselle? No. Quello con le due caselle è una fregatura, però. No, allora non lo conosco quello. Allora c'è via Parco della Vittoria, che è quello viola, con le due caselle, e l'altro, che sono quelli che costano di più, però essendo due, la probabilità che ti ci capiti qualcuno è un po' più bassa. Infatti ci sono diverse linee di pensiero, però diciamo che la strategia migliore è farsi la via. Una volta che tu ti fai la via di qualsiasi colore, sei il re del mondo. Esatto, esatto, sei a posto. E, la tua strategia era tante case o arrivare all'albergo il prima possibile? No, perché io voglio i trucchi, perché se, visto che si avvicina il Natale, l'abbiamo detto, lo ricordiamo, sabato 22 dicembre, quindi ci manca poco, può essere che ci si sieda a tavola a giocare con i parenti, e io volevo cercare di vincere una mancetta, se avevi qualche strategia buona. Ma io voto albergo, arrivare all'albergo il prima possibile, però prendersi così le stazioni, no? Sai che ci sono le quattro stazioni, le stazioni, è vero, o altre cose che non sono le case, l'acquedotto lì, esatto, era acquedotto e energia elettrica. Ok, quindi io voto alberghi, più stazioni. Perché se non ricordo male, anch'io sono un po' a corto di Monopoli, sulle stazioni più ne hai più raddoppia l'importo, esatto, giusto? Esatto. Era tipo 20.000 una, 40.000 due, a salire fino a 80, qualcosa del genere. Sì, sì, sì. Perfetto, perfetto, esatto. Vedi che abbiamo avuto anche i trucchi dall'economista. Vuoi mandare un saluto a Francesca? Vuoi dirle qualcosa approfittando del microfono? Sì, le faccio i miei complimenti per questo traguardo raggiunto, che non avevo dubbi che l'avrebbe raggiunto, perché comunque sapevo della sua bravura. Complimenti Francesca, grazie per questa serata, che comunque ci siamo divertiti tutti e grazie anche al convento che ci ha ospitato e... ok. Perfetto, perfetto, grazie a te Alberto per essere stato voce, occhi e anche tanti ricordi di questa, della nostra festeggiata, di questa bella festa, di questa bella serata. Noi ringraziamo voi e auguriamo a te, a Francesca e a tutto il vostro gruppo un grande in bocca al lupo per il vostro futuro. Grazie. Ciao, ciao, ciao a tutti.